Quella che state ascoltando è Madre di Frank Julian. Io devo dire che questa canzone, tutto sommato, non è neanche male per essere una delle canzoni all'interno del repertorio di Creative Commons. Va bene, ragazzi, dai che si comincia. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! www.runtimeradio.it. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Buongiorno un cazzo. Io non so se mi si sente bene, perché mi sento male io da solo. Mi sento male, dottore. Non è vero, sto benissimo. Quindi dicevo, www.runtimeradio.it. Benvenuti a Buongiorno un cazzo. Vi ricordo i nostri semplici riferimenti. Vi ricordo, non lo ricordiamo mai, che se volete, avete qualcosa da commentare, qualcosa da dire o suggerire anche, o proporre o mandare come materiale aggiuntivo, c'è la famosa mail runtimeradio@gmail.com, che giustamente è lì a disposizione di tutti e che non viene quasi mai usata, perché ci ricordiamo mai, insomma, di citarla, giustamente, ma c'è, insomma, usiamola se vogliamo. E telegram.me/dirette runtime è dove potete cercare ovviamente la chat globale, nella quale ovviamente facciamo tutte quante le nostre riflessioni durante le live e anche quando ci pare a noi, insomma, diciamo le cose che ci vengono in mente. Ma quella più o meno, se state già ascoltando, insomma, la conoscete. Anche se invece il fatto di dirlo, comunque, magari le persone lo riascoltano in podcast, perché vi ricordo che questa puntata, immediatamente dopo la live, dopo un po', insomma, diciamo durante l'arco della mattinata, poi uscirà in formato podcast, aiuta le persone comunque a conoscere anche questi nostri riferimenti e magari agganciarci, perché questa è la cosa più importante. Infatti ogni tanto ciccia fuori qualcuno, entra fuori qualcuno in chat una volta ogni 2-3 settimane, insomma. Fa sempre piacere vedere facce nuove. E invece, se andate su runtimeradio.it, c'è insomma il tag lì, il pulsante anch'io, e potete contribuire con una donazione, una tantum su PayPal o con una donazione ricorrente al nostro progetto, perché ovviamente insomma, se vi piace quello che facciamo e lo volete sostenere, a noi ci fa sicuramente piacere. Io parto con il mio brano, dato che oramai lo fanno tutti, è diventata tradizione, lo faccio anch'io, con il mio brano del giorno, che non è connesso direttamente, insomma, a quello di cui parleremo all'interno di questa puntata, ma è un brano che proprio come sonorità mi è sempre piaciuto, l'ho sempre adorato, e però così non c'entrava niente, stamattina mi è venuto in mente, e quindi ce lo spariamo live, chiaramente. Thank you. devo essere onesto, io questa canzone la conosco da una vita e mi ha dato sempre tantissime suggestioni, ovviamente anche positive. Non so, non ho mai saputo e non ho mai neanche voluto sapere di che cosa parla sta canzone. Parla di uno che picchia un bambino, non lo so, cioè non lo voglio sapere, perché mi tengo la suggestione della prima volta che l'ho ascoltata, e queste sonorità, una canzone che riesce ad emozionarti, anche a commuoverti, pur non sapendo di che cosa sta parlando. Questa secondo me è la potenza di una canzone come questa. Poi queste sonorità evidentemente mi rievocano qualcosa, io non lo so, non l'ho mai capito, devo dire la verità, però mi è sempre sembrata mi porta a un'esortazione al buon comportamento, ogni volta che penso a questa canzone penso che non dobbiamo stare lì dentro di noi a infracichisce di rabbia, di rancore verso il mondo che è brutto e cattivo, ma bisogna cercare di alzarsi, sollevarsi ogni tanto, cercare di fare noi magari qualcosa in più, no? Il nostro meglio che noi possiamo, che non è soltanto parlarne, ma è anche agire, perché come diceva qualcuno, la vera rivoluzione inizia dentro di noi. Trasformare noi stessi in qualche maniera aiuta a cercare di trasformare il resto del mondo, o perlomeno il mondo che ci circonda, che è un po' il nostro punto di riferimento. Comunque, questa mattina saluto intanto tutti, saluto Walter, Francesco, Gianluca, al 9000, e proprio da al 9000 che partiamo, perché durante il libro game di Leo di ieri, giustamente ha fatto notare tutta una serie di problematiche che ha riscontrato ieri per quanto riguarda il discorso degli ospedali, e questa cosa mi ha fatto venire in mente un aneddoto che poi a sua volta mi ha fatto percorrere un cammino a ritroso nella mia vita che è stata particolare da questo punto di vista, perché il mio rapporto con gli ospedali è stato costante, diciamo, negli anni, sin dal giorno in cui sono nato, e qualcuno potrebbe dire grazie al cazzo sei nato in ospedale e per forza è così. Sì, non è proprio direttamente così, perché poi io ultimamente utilizzo questa trasmissione, che secondo me per questo forse è diversa da tutte delle altre, perché piuttosto di parlare della cronaca, degli argomenti che poi alla fine in qualche maniera lo fanno benissimo tutte quante le altre trasmissioni di Runtime, secondo me questa è un po' una sorta di piccolo salotto dove si bestemmia davanti allo psicologo. Tu sei davanti allo psicologo e lo psicologo dice mi dica, e tu bestemmi, stai lì e bestemmi, e quindi alla fine ogni tanto, insomma, faccio le mie riflessioni molto, molto personali, a volte anche intime, perché comunque da quando esiste Runtime io comunque ho comunicato cose che probabilmente in il resto dei 40 anni della mia vita non ho fatto, insomma. Quindi il tutto nasce da una cosa che forse chi mi conosce da molto molto tempo, poi questa cosa è sparita, quindi chi è entrato magari nella mia vita, nella seconda parte della mia vita, probabilmente non lo sa, ma esisteva un momento in cui io volevo scrivere un libro sul mio percorso, no? Poi mi ricordavo, mi è fatto venire in mente che questa cosa mi ricordava mio padre, quindi ho lasciato perdere. E questo libro iniziava più o meno così. Mi viene da ridere perché poi oggi, cioè, nel senso, una volta lo pensavo con serietà questa cosa, perché vedevo la gravità di quello che volevo raccontare, come se il mio fosse una sorta di esempio universale che doveva essere raccontato, perché gli altri, no, tutti quelli che magari hanno avuto delle difficoltà, delle sofferenze, voi avete, se voi sapeste, no, capito? Cioè, come se il valore di un uomo è paragonabile al proprio dolore, e che il proprio dolore abbia un valore oggettivo rispetto a tutti gli altri, no? Come se alla fine in realtà il dolore è soggettivo, cioè persone magari con problemi relativi che per noi possono sembrare sciocchezze, per loro possono essere montagne enormi. E questa cosa, insomma, iniziava più o meno una cosa tipo: sono nato il 6 febbraio del 1972 alle 3 del mattino ed era buio. Ma non era buio fuori, era buio dentro. Cioè, allora questa cosa mi sembrava meravigliosa, cioè avevo trovato cazzo, cioè il significato intrinseco spaziale che poi oggi mi fa ridere questa cosa. Non rido di me o della cosa o dell'intenzione, rido perché mi fa ridere la cosa, cioè nel senso, chiaramente non percepisco più. Questo è secondo me quella parte del miglioramento che è arrivato, insomma, con l'invecchiamento, anche se poi magari sono peggiorato in tante altre cose. Cioè il fatto di non essere più legato, così geloso di quel mio passato, di quella mia storia, di quel mio percorso di dolore, no? Ma aver lasciato andare, così come ho lasciato andare tante cose della mia gioventù che prima magari guardavo con nostalgia, con rimpianto, chissà che cosa. Oggi io guardo il mio passato con una grande serenità da questo punto di vista. Non sento più quella stanchezza fisica e mentale che sentivo prima quando guardavo indietro, no? Come il vecchio che si siede su una panchina e ripensa ai suoi anni e dice sono stanco. E invece no, non è più così. Questa è una cosa bella, mi piace, però. E quindi oggi racconto certe cose con maggiore disinvoltura, anche se poi queste possono anche condizionare un po' l'immagine che gli altri hanno nei miei confronti, no? Perché come ho detto, come molti sanno, io sono nato col glaucoma e quindi sono praticamente ipovedente da gran parte della mia vita, nel senso questo è quello che ha condizionato la mia esistenza. L'ha condizionata ovviamente in tante maniere, anche se comunque, e poi vi spiegherò un giorno perché sono molto legato a un film come Gattaca, cioè comunque il mio tentativo nell'essere è quello di riuscire, per parte della mia vita, in parte ci sono anche riuscito, a scavalcare il problema e renderlo inutile, cioè nel senso, magari persone che magari neanche se rendevano conto, no? Cioè, nel senso della cosa. E questa è una cosa che mi ha sempre reso orgoglioso. Però essendo nato ovviamente col glaucoma, io quando sono nato si racconta che praticamente avevo questa patina celeste sugli occhi e che quindi il dottore, i medici dissero subito a mia madre, che aveva poco più che 20 anni, che ero nato cieco, quindi per loro non avrei mai potuto vedere, e questo creò ovviamente paura, spavento, angoscia in mia madre, che mia madre da mora con gli occhi celesti alla fine ha passato il resto della sua vita come bionda con gli occhi celesti, perché da quel giorno lei praticamente gli vennero i capelli bianchi, cioè a 21 anni mia madre gli vennero i capelli bianchi, non tanto per la cosa in sé, ma anche per il modo in cui cioè sono state dette determinate cose. E questo mi ha fatto riflettere, perché poi c'è stato un aneddoto appunto che mi è venuto in mente ieri, proprio sentendo Al che biastimava con la burocrazia degli ospedali. E vi assicuro, ragazzi, che è ovvio che è sempre tutto molto soggettivo, è sempre tutto molto parziale, ed è sempre tutto molto legato anche alle contingenze, alle situazioni. Però io ho attraversato gli ospedali anche per periodi prolungati negli anni 70 e 80, e vi devo dire che c'è stato un abisso rispetto a quelli che sono gli ospedali in Italia oggi, un abisso da un punto di vista igienico, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista pratico, da un punto di vista umano soprattutto, perché è vero che ci saranno sempre gli stronzi, ci saranno sempre quelli che si troveranno male, ci saranno sempre quelli che hanno il loro disagio, che lo riflettono su di te, tutto quello che vi pare, perché io ho raccontato più volte, anche quando sono stato recentemente, tipo 2 anni fa, a Perugia, ricoverato 4 giorni per la psoriasi, e c'era questa infermiera che mi faceva capire in tutte le maniere il suo disprezzo, perché lei doveva ovviamente mettermi questi unguenti, e io gli dicevo: ma scusa, ma tu pensi che a me mi fa piacere essere spalmato da te? Cioè tu pensi, perché tu sei donna, pensi che all'uomo gli fa comunque piacere, no, di essere massaggiato da te, e a te comunque ti fa schifo, perché dice: io queste cose non le faccio neanche a mio marito. Ma chi te ha chiesto? Ma tu pensi che io sono contento di stare dentro all'ospedale a farmi mettere gli unguenti da te? Cioè, tu pensi questo, no? Perché poi, comunque, al di là di questo, e quindi deviazioni, comunque oggi c'è molta più attenzione al paziente, al pensiero del paziente, c'è più psicologia, c'è più tatto, sempre tenendo in considerazione insomma il fatto delle varie differenze, del fatto che non è un valore assoluto, però va sicuro che negli anni 70 tutti questi problemi non ci stavano, cioè nel senso, se tu eri una mamma con un bambino piccolo in ospedale che doveva fare determinati esami, determinate cure, non ti diceva un cazzo nessuno, nessuno ti parlava, nessuno ti rivolgeva la parola, ti piavano nel pacco, facevano, parlavano fra di loro, tranne che con te, te non ti diceva niente nessuno, se non l'ultimo degli stronzi, soprattutto se andavi in un ospedale universitario, ad esempio il Policlinico, metti, perché insomma a Roma il Policlinico negli anni 70 era proprio il fulcro dello studio di medicina, insomma. E tu andavi lì, se arrivava l'ultimo degli stronzi, cercava di spiegarti con termini che tu non capivi, e se non capivi sei stupido, non è colpa del medico che non riesce a farti capire. E io ho fatto un grosso raffronto anche con l'estero, perché io comunque nel 1987 e nel 1986 ho fatto due interventi chirurgici, uno rispettivamente 86 in Inghilterra, me lo ricordo bene perché c'erano i mondiali, quelli che vinse Maradona se non sbaglio, no non mi ricordo chi ha vinto, sì, può essere sì, e nel 1987 in Nuova Zelanda, dove sono stato diverso tempo, insomma 3 mesi, ed era un mondo diverso. È chiaro che anche la sanità, l'approccio della sanità era completamente diverso, perché comunque in Inghilterra sapete è semi privata, è un po' più complicato, anche in Nuova Zelanda c'era un modello un po' simil britannico, però gli ospedali erano un'altra cosa, cioè sembrava di essere dentro delle astronavi, era esattamente come lo vedevi nei film americani negli anni 80-90, ecco era quello, cioè nel senso comunque con la reception tutto illuminato, tutto pulito, infermieri sempre molto attenti, io addirittura in Nuova Zelanda c'avevo un infermiere che quando insomma dopo aver fatto l'ingresso e tutto quanto venne da me con un block notice e mi diceva le cose in inglese, voleva sapere come erano in italiano, così che tutti gli altri potessero insomma dirmi le cose in italiano piuttosto che in inglese, ma se tu me lo chiedi a me, no? Vabbè, lì era un po' scemo questo, però cioè, era un pezzo di pane, una bravissima persona, no? E quando sono tornato in Italia ho rivisto l'abisso, però io non sono mai stato uno di quelli va all'estero, ma noi in Italia facciamo schifo, perché comunque nei 20 anni successivi piano piano ho visto un progressivo miglioramento dal punto di vista sia della competenza, perché in certi settori forse mancava anche quella, sia dal punto di vista dell'atteggiamento. Secondo me gli ospedali, per quanto abbiano una stramarea di problemi, oggi sono sicuramente migliori rispetto a quello che erano un tempo, ma non ribadisco, non in senso assoluto, perché poi chiaramente oggi rispetto a prima forse prima c'era più approssimazione dal punto di vista burocratico, invece oggi c'è più precisione, no? Perché sono mille milioni di regole e poi nessuno vuole infrangere le regole, perché sennò poi dopo gli rompono i coglioni a lui, no? E questo da una parte io un po' lo capisco, anche se in realtà poi questo è un discorso sempre molto relativo, perché io penso che ci sono delle condizioni nelle quali per esempio ci dovrebbero essere sempre degli approcci, perché io mi ricordo quando mio padre nell'ultimo periodo, insomma prima di morire in ospedale, lui era entrato in coma, e io mi ricordo che andai giù insomma agli uffici preposti a chiedere un documento che certificava il ricovero di mio padre, e facendo vedere i miei documenti, il fatto che io ero comunque il figlio, e questo impiegato, a me la cosa che mi fece, perché poi sbagliamo anche noi ragazzi, purtroppo voi dovete capire, dall'altra parte c'è sta qualcuno che sta a fare un lavoro, che per quanto ci ostacoli questa cosa, alla fine non è con la persona che bisogna prendersela, ma è con un meccanismo, anche se poi secondo me nello specifico era più la persona che il meccanismo, perché io poi ho individuato in lui chiaramente la mia fonte di disprezzo, no? Perché se io ti chiedo una certificazione e lui dice no, serve la delega di tuo padre, ma mio padre sta in coma, io non ci posso fare niente, mica posso andare a mezzo ai guai per te. Una persona che mi dice così, con qua la faccia lì, è quello che apre un quarto d'ora in ritardo sta dietro al computer, tu lo vedi che sta là, ma non tira su la tendina per un quarto d'ora perché sta a fare i documenti per i cazzi suoi o per gli amici sua o per i parenti sua, e tu gli chiedi una cosa, lui mica posso passare i guai. Mi sono attaccato al vetro, ragazzi, devo dire la verità, è una delle poche volte dove mi sono attaccato al vetro. Poi l'ho stramannato a fanculo e sono uscito. Quando sono uscito, lui è uscito dall'ufficio per venirmi dietro, e lì era è stata una mossa azzardata per lui, perché non avrebbe potuto finire bene. Infatti poi dopo se n'è andato e mi si avvicina una suora, poi Corina mi ha fatto veramente pure tenerezza, mi ha detto: perché vi arrabbiate? Qui Walter Sbano avrebbe potuto usare il suo beep, perché vi arrabbiate. Però lei l'ha fatto con buone intenzioni, non me la sono presa con la suora, naturalmente, insomma. Non avrei potuto, non avrebbe neanche avuto senso. Like Leaves, Anigazia. Ci hai rotto il cazzo, come dicevo. Vabbè, dai, basta con queste battute becere e banali. Comunque questa cosa, la cosa che mi rimarrà sempre impressa prima di passare al secondo argomento, è il codazzo dei professori. All'ospedale erano dei semidei, erano delle persone che camminavano a mezzo metro d'altezza senza guardare nessuno, un po' come il re che passa e non degna di sguardo il suddito, il giardiniere, così tu eri una pezza, stavi lì e loro facevano il loro dovere per evocazione divina. Mi ricordo che una volta io ero sotto cura del professor Pannarale, praticamente vabbè, forse non per Natale, uno dopo, che adesso veramente ho rimosso completamente, pure è stato un tizio importante nella mia vita, perché insomma ci sei intignato a fare un sacco di danni, alla fine era, ci sarebbe questo proprio di impegno. Ma era un professorone, cioè di quelli proprio i mega professoroni, che tu poi mi hai detto: guardate che sai che professore in questa qui in Nuova Zelanda c'è questo professore sudafricano che ha inventato questo metodo, questo sistema. Ah sì, ma non funziona. Vabbè, ma che senso non funziona? Poi dopo ci sono andato in Nuova Zelanda, chiaramente. Però questo mi ricordo che dopo un intervento inutile, perché lui, ah ecco perché mi sono dimenticato di dire una cosa, che una volta non c'era l'obbligatorietà di scelta tra pubblico e privato. Il medico ti accoglieva nel pubblico e ti portava nel privato con la scusa dell'urgenza, no? No, qui bisogna assolutamente sbrigarci, è una cosa, purtroppo la lista in ospedale sono 6 mesi e quindi no, dobbiamo assolutamente sbrigarci. E quindi tu andavi a finire, io grazie a Dio era un periodo in cui il lavoro, il mio padre si era sviluppato tantissimo. Mi ricordo che andavamo a fare queste operazioni a Villa Carla, si chiamava così allora, poi dopo l'istituto privato ha cambiato nome. Tra l'altro ci sono riandato qualche anno fa perché mia suocera si era fatta male al crociato e l'avevano operata lì, e quando sono entrato dentro pure che l'avevano ristrutturato, l'avevano rimodernato, comunque è stato proprio un tuffo nel cuore, insomma, ma nel cuore quello sbagliato, chiaramente. E quando una volta alla fine di un intervento mia madre disse: allora professore, com'è andata? Lo sa solo Dio, siamo nelle mani di Dio. Perché poi devi considerare che tutti questi medici ultra cattedrati, super primari e cazzi imperi erano tutti democristiani, poi chiaramente, quindi insomma tutti che facevano parte di quella corrente lì, e quindi non è ma cioè siamo nelle mani di Dio è un po', come posso dire, un'associazione diretta o indiretta del fatto che le mie mani sono state guidate dal Signore. E questo erano questi, così ragionavano, insomma. Poi chiaramente sono state anche eccezioni positive, però insomma in generale. E quindi vabbè, volevo un po' dire a Al che insomma quando io ho litigato col tizio, che lui mi chiedeva giustamente la delega di mio padre, io gli facevo: come faccio a fare la delega di mio padre che sta ricoverato in questo ospedale in coma? Cioè nel senso, sono le storture, gli incaponimenti di una burocrazia che invece di aver semplificato le cose, forse da un certo punto di vista le ha semplificate, dall'altra sicuramente ci ha reso la vita assolutamente più difficile, soprattutto perché nessuno si prende la responsabilità di fare cose che dovrebbe fare poi alla fine, no? Perché insomma, se io ti chiedo un documento è perché quel documento comunque mi serve e tu me lo devi dare, cioè nel senso mi devi aiutare quantomeno ad averlo, perché se io ti dico che io non posso ottenere la delega, tu mi devi trovare la soluzione, ma la devi trovare tu, non la posso trovare io, perché sei tu che mi devi rilasciare il documento. A me quel documento mi serve indipendentemente dal fatto se mi servisse o no, è una questione proprio di principio, cioè no, ma sai, per riesumare le ossa di suo nonno ci vuole la delega firmata da suo nonno, è lo stesso principio, cioè nel senso. Comunque veniamo velocemente, perché non ne avete parlato già abbastanza e l'avete fatto anche molto bene, veniamo al discorso della tristezza insomma di ieri, anche se era una tristezza annunciata, io non mi sono neanche indignato perché era una cosa scontata e per chi conosce la politica sapeva già perfettamente che sarebbe successo così, e ci sono delle ragioni anche politiche per cui è successo così. Però se andiamo un po' a ritroso, diciamo che l'affossamento e il disegno di legge Zan probabilmente è colpa di tutti, amici e nemici, ed è di Zan stesso probabilmente, perché comunque tutto è nato male, tutto è progredito male, non c'è stata interazione, non c'è stato compromesso, non c'è stato nessun tipo di dialogo, è stato uno scontro. E ovviamente quando poi, come abbiamo detto, insomma, è stata richiesta il voto segreto, sapevamo già, insomma, che... perché poi, e questo secondo me è una cosa che la Costituzione non avrebbe dovuto prevedere, che il voto segreto all'interno di una realtà parlamentare, dove comunque il parlamentare sì è aderente a un'area, a un partito e tutto quanto, ma ha comunque la propria libertà di coscienza, non dovrebbe esistere, anche perché all'interno del partito si discute, si prende una decisione, però poi se una persona non è d'accordo, non è d'accordo. È vero che una volta esistevano i partiti monolitici, no? Quello che si diceva, si decideva ad esempio il comitato centrale del Partito Comunista doveva essere, e quello doveva essere, non è che c'erano troppi cazzi su questa questione qua. Però poi insomma oggi le cose sono molto cambiate, il voto segreto chiaramente permette a tutti quegli infami che sono d'accordo de facciata ma che poi alla fine gli fa schifo quello che tu hai fatto, di incularti così senza nessun tipo di problema. E infatti è quello che è successo, cioè è successo esattamente quello che ci aspettavamo. Ho visto un cane che scodinzolava con la coda dell'occhio, so, forse era d'accordo con me su questa questione. E poi c'è un discorso anche relativo al dialogo politico che non c'è stato. A volte io faccio sempre una domanda: se una legge è una legge di progresso, è meglio una legge raffazzonata o nessuna legge? È una risposta che io non do mai con tanta leggerezza, perché in teoria, diciamo, il principio mi verrebbe di meglio nessuna legge che una legge fatta raffazzonata. Però secondo me il passaggio di una legge è comunque un atto simbolico in quel caso, anche perché poi, diciamoci la verità, la legge Zan amplifica un concetto che già esiste sia a livello costituzionale che a livello legislativo, quindi alla fine anche quello, cioè nel senso, era un po' tutto raffazzonato, no? Poi facciamo una volta quelli che veramente si distinguono dalla massa, facciamo una volta veramente quelli che hanno un pensiero di sinistra, che hanno un pensiero sociale. Pensiamo a costruire una legge che crei dei diritti e non crei delle punizioni, cioè, perché sennò siamo come tutti gli altri, eh? Cioè, noi facciamo le leggi per punire la gente, piuttosto che invece alla fine cercare di fare un qualcosa che aiuti a progredire, a far accettare alla società un qualcosa. Ma il problema è anche questo, la comunicazione. Cioè qui non puoi stare barricato nella tua figura da parlamentare e non spiegare al mondo che cosa sta succedendo, perché cosa ti stai battendo, che cosa sta portando questa legge. Altrimenti, senza una comunicazione chiara che permetta alla gente di comprendere quello che sta succedendo, dai semplicemente la possibilità a tutti i detrattori, a quelli che fanno la propaganda più becera dell'universo, agli stronzi della politica, di poter dire cose al posto tuo, perché tu non sei in grado di comunicare con gli altri, di difenderti, e lasci praticamente a tutti quelli che un po' ti sostengono il compito di difendere una legge che tu stesso non sei in grado di difendere, perché poi è anche un po' questo. Poi dopo, diciamoci la verità, a sinistra e a destra lo sapevamo, a sinistra è stata gente che ha votato contro la legge, a sinistra poi ovviamente, senza parlare di Italia Viva che sapete, no? Che in Sicilia hanno fatto l'accordo elettorale, no? Con Forza Italia, Italia Viva, Forza Italia, Viva Italia, Forza, e vabbè, lo sappiamo, no? Quindi di che cazzo stiamo a parlare? Fortuna che, nonostante che a Renzi, che deve essere veramente il figlio di qualcuno, cioè non il figlio di Renzi, deve essere proprio, come te posso dire, il cocco politico di qualcuno, perché io non riesco a capire, questo che non è buono fa un cazzo. Mizia dice c'ha un pensiero sopraffine, talmente una finezza politica che voi non la capite. Ma com'è che non la capisce nessuno sta finezza politica? Però ciò nonostante gli hanno trovato il posto in Arabia Saudita, dalla quale lui si permette di alzare il telefono e dire no, guardate che è colpa del PD, capito? Cioè nel senso, ma grazie a Dio comunque le ultime elezioni l'hanno portati su quello che noi sapevamo che sarebbe successo, ossia l'urlo dell'estinzione. E infatti è quello che sta succedendo, e probabilmente se non si accorperanno a qualcosa nelle prossime elezioni, io penso che gli amici di Renzi saranno destinati all'estinzione totale dal punto di vista politico. E Renzi secondo me non si presenterà neanche, perché a Renzi un posto da fare qualcosa glielo trovano sempre. Abbiamo capito questo, è una cosa incredibile. Io devo capire questa persona chi cazzo è, cioè che cosa c'è dietro, perché qui si tratta pure di avere anche conoscenze, no, dietro a questa. Boh, cioè io non lo capisco, raga, mi dovete scusare. Vabbè, seconda pausa, poi andiamo all'argomento finale, che avrebbe dovuto essere l'argomento principale e che verrà un po' sacrificato purtroppo, perché ci sarebbe stato insomma da parlarne. E questo è Paranoid di Antares. Antares, va ricordato Antares. E allora, prima di andare avanti, mi stavo sleggicchiando insomma i vostri commenti. Voglio fare una precisazione su quello che ha scritto Walter, che concettualmente mi trovo perfettamente d'accordo, ma magari nello specifico forse è anche corretto magari che io specifichi meglio un po' la questione, perché lui dice non vi arrabbiate, è la tipica reazione di chi vive in un mondo avulso e privo di empatia. Ma guarda, nello specifico la suora, la piccola suora, veramente con uno sguardo anche sorridente si è avvicinata a me, non vi arrabbiate, ma ce l'aveva con me, cioè no, voi non vi arrabbiate, voi, cioè nel senso mi dava del voi fondamentalmente. Ma perché vi arrabbiate? Cioè voleva proprio, è come se dice, è stato quasi un gesto anche carino, no? Nel senso di porre un po' la mano, né? Vuoi parlare? Stava lì col banchettino della Croce Rossa, insomma dai, tutto sommato io l'ho anche apprezzato, se non fosse stato il contesto dove uno gli avesse detto perché ci arrabbiamo, che poi io ho risposto, devo dire la verità, io ho risposto alla sola, ma non mi ricordo, e forse è meglio così, non mi ricordo cosa gli ho risposto. E condivido pienamente il discorso che fa anche Aldo 9000. Purtroppo Al, come ho detto, molte cose sono cambiate, molte cose non sono cambiate. Secondo me oggi forse la cosa si radicalizza perché burocratizzare un contesto come quello degli ospedali, dove, come tu dici, e giustamente alla fine io ho omesso di dire, ma penso che era insomma sottinteso, una persona è già sotto tensione, è sotto preoccupazione, per quanto anche sia una cosa semplice magari, comunque ragazzi è sempre un ospedale, è sempre un parente, sempre un affetto importante della propria vita che finisce sotto, magari sotto le cure in ospedale. La cosa non è mai bella, soprattutto se poi c'è una gravità. La gravità, e tu di fronte alla gravità mi viene a chiedere una cosa che non è proponibile, ok? Cioè non è assolutamente fattibile, chiaramente. E Francesco invece dice che la cosa ridicola è che l'unica parte che ha cercato un compromesso e un dialogo, anche se sulle premesse sbagliate, è Italia Viva. Non credo comunque che le cose sarebbero cambiate, vabbè, insomma. Non ce ne frega un cazzo, cioè nel senso sì, ce frega, ma purtroppo è andata, questa cosa è andata, ci vorranno 6 mesi prima di poter ripresentare la legge. Io esorto Zan a semplificare i concetti, a portare avanti un messaggio anche basato sui diritti e non soltanto sul inserire ulteriori elementi di reato all'interno del, per quanto ce ne sia bisogno, io non lo metto in discussione, però non sarebbe più semplice scrivere una legge globale, no? Dove qualsiasi forma di violenza e di discriminazione, qualsiasi, poi tu dici sì, ma se però poi la legge non identifica quel tipo di reato come una forma di violenza e discriminazione, hai ragione, però secondo me le leggi vanno pensate bene. Pensate bene, purtroppo poi oggi in una democrazia parlamentare tu non puoi pretendere che non ci siano comunque cose che vadano limate. Poi magari col passare del tempo farai ulteriormente uno step in avanti. Quindi è un invito a quello di entrare nel gioco della politica, perché la politica è questa. Poi chiaramente, vabbè, no, non parliamo, l'ho già detto in altre puntate, di tutte quelle persone che quando devono parlare di queste cose mettono davanti i bambini. Mi fate schifo, è uno schifo che proprio me. Io quando vedo un politico, una persona, un babbione che sta lì, i bambini, a me, io già ti vedo con le mani sul sedere del ragazzino. Lo so, sono malato, ma mi fate schifo quando parlate dei ragazzini. Voi che volete tutti nel segreto, nel buio delle vostre sacrestie, mi fate schifo quando parlate dei ragazzini. I ragazzini non c'entrano niente, difendiamo i nostri ragazzini, ma i ragazzini devono essere difesi da voi, mortacci vostri, che fate schifo, che ci avete la bava alla bocca, che vi riempite delle parole dei Gesù Cristi in croci, che se potessero venire giù sulla terra vi prenderebbero a carci in culo tutti, e voi direste ah, questo non è il Gesù Cristo che dicevamo noi, perché è questo, no? Cioè, come, guardate col Papa, no? Arriva il Papa un po' più, come te posso dire, lasciamo perdere quello che penso io di Papa Francesco, ma magari, che ne so, un po' più di ispirazione, insomma, sociale. Oh, il Papa che chi, cioè, capito? Cioè, loro sono in grado di distruggere anche le loro stessi punti di riferimento, purché siano quei precetti, quei 3-4 precetti di giustizia, folgore e rigore, capito? Perché quello che è quello che vuole Dio. Secondo loro Dio sta lì e non vede l'ora di dire saette nel culo da gente, capito? Quindi i bambini mi fanno schifo, a me proprio è una cosa, scusate raga, è un'esternazione mia, però mi fanno veramente schifo. E aggiungiamo anche il fatto che Zan è una vittima di questa situazione, è la classica vittima sacrificale sul tavolo di giochi più ampi, dove ovviamente il governo stesso lo ha praticamente buttato allo sbaraglio, piuttosto che magari perdere il supporto dalla Lega, perché poi è anche quello, cioè, nel senso, dai buttiamola là, tanto viene bocciata e così famo contenta la Lega, che c'ha il suo piccolo contentino e per 2 o 3 giorni non romper cazzo in maggioranza, perché poi un po' è questo il gioco, ragazzi, perché la politica è anche questo, anzi la politica è soprattutto questo, detto da uno che, anche se non ad altissimi livelli, la politica l'ha fatta ed è stato messo in condizioni critiche dal suo stesso partito, quindi diciamoci la verità. Insomma, purtroppo la situazione questa è. Poi vedo Sbano che ha scritto altre cose, ma leggo dopo, sull'ultima pausa prima dei saluti. Volevo fare invece un discorso più importante, più ampio, però in 10 minuti no, non c'ha senso. Spero, non solo per la nostra salute mentale, anche per il benessere della nostra società, che durante questa settimana non succedano cose particolarmente drammatiche, perché sono già 3 puntate che io rinvio questo tema fondamentale di cui vorrei parlare, e quindi mi isolerò dal mondo e qualsiasi cosa succederà la prossima settimana io parlerò del tema fondamentale sul quale ovviamente voglio puntare l'attenzione, sempre esortando tutte le persone a leggere, ragazzi, leggete libri, leggete romanzi, leggete saggi, leggete i giornali, leggete vari giornali, non vi fossilizzate, non state su Facebook, leggete, perché leggere allena la mente, vi aiuta ad avere una mente più elastica, a conoscere un vocabolario più ampio, a capire le cose. Se no, voi sarete sempre gli stupidi che si nascondono dietro idee stupide perché gli altri sono troppo intelligenti. Ma tutti potenzialmente possiamo diventare intelligenti, tutti possiamo studiare. Ma anche senza studiare, leggere serve per tenere la mente aperta e capire e osservare il mondo in maniera diversa e vedere che oggi, a livello globale, a livello planetario, c'è veramente un complotto, che non è le stronzate che dite voi, che non so quelle, ma è un lavoro sistematico e oscuro dedicato alla disgregazione. E la disgregazione è un elemento che porta potere. Riflettiamo su questo, così poi alla fine, la prossima settimana, ne parliamo veramente con cura. By walking away, but there's a way to see that I was only saying. I can still remember the first time I met you in that yellow sundress. Other memories of contentment and resentment start to bleed in with the rest. And so, hey, hey, it'll lay your head down. You don't have to wait no more, more, more. 'Cause standing here 2 years away, I see that there was nothing here we'd wait for. Adam Scott York, 2 years away. Ragazzi, questo rock pop, no, questo folk country rock pop in the way, in the night. Mi piace molto. A me queste canzoni così mi piacciono, anche se fanno schifo e parlano di vecchi che picchiano i bambini, non lo so. Ce l'ho con i bambini stamattina. E sì, insomma, sarà interessante la puntata della prossima settimana, credo. Perlomeno la mia intenzione è che lo sia, insomma, perché è la mia auspicazione, ragazzi, perché è una cosa importante. Prima di salutarvi, Massa in Italia, giustamente, ritornando al discorso del decreto Zan, in un paese normale sarebbe auspicabile una legge semplice e universale, ma se in Italia è servito il reato di femminicidio, altrettanto servirà ovviamente una legge che... Guarda, su questo ne abbiamo parlato anche con Walter Sbano, sì, scusa Walter, Walter Vannini, e credo che ne parlò lui anche in realtà su Data Nightmare. In realtà, questo è come il discorso del revenge porn, no? In realtà le leggi esistono, cioè esistono già, tutte le altre leggi sono dei rafforzativi, dei carichi, a volte sono anche un po' propaganda, perché la legge esiste. Se abbiamo bisogno di aggiungere delle leggi che inseriscano delle specifiche, vuol dire che pure dal punto di vista giudiziario siamo un paese arretrato. Perché la discriminazione è discriminazione, l'infamia è infamia, la violenza è violenza, a prescindere su chi e cosa viene fatto. E questo è il discorso di fondo. Però ci sta, cioè io non sono contro la specificazione, però insomma, diciamo che fa un po' strana, no? Cioè, sì, in effetti, poi giudice, se quello che è successo a Zan è un po' il prologo di quello che succederà con le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, cioè ritroviamo Berlusconi, strappiamo la tessera elettorale. Guarda, io la tessera elettorale la devo andare a riprendere ogni volta perché me la perdo. Però sì, sarebbe quello che poi succede in Italia. Noi guardiamo sempre un po' all'estero, a quei paesi un po' strani, tipo vediamo Orban, vediamo Bolsonaro, vediamo la Turchia, e poi alla fine ci vediamo un po' sopra. Ah, guarda questi come stanno messi. Ma in realtà come stanno messi? Stanno messi così, stanno messi come noi. Cioè alla fine noi a volte mi ricordo quei vecchi telefilm di cui Walter parla spesso, facendo sentire le colonne sonore su Le Orazioni della Sera. Praticamente quei telefilm dove, che ne so, magari facevano vedere, che ne so, che succedeva qualcosa nel piccolo paese del sud Italia, no? Dove c'erano i carabinieri che invece di essere neri erano bianchi, no? Perché ovviamente li camuffavano, magari li chiamavano in un'altra maniera, ed erano visti un po' come i poliziotti della Repubblica delle Banane, no? Ma cioè, noi questa immagine un po' ce la siamo portata dietro per tantissimo tempo, e ancora oggi, se io penso, insomma, nel periodo, insomma, quello di Berlusconi, dove dobbiamo fare 60 processi per dire che Berlusconi dentro casa sua faceva le feste con le puttane, o che ancora noi oggi dobbiamo scagionare Berlusconi sulla questione della nipote di Mubarak, cioè che voi mi dico, voi vi rendete conto, un Parlamento assoggettato al volere di un coglione, perché poi sarà stato anche un uomo potentissimo, quello che cazzo ne pare, no? Però un Parlamento di una Repubblica, quindi l'importanza istituzionale, assoggettato per votare sì quella nipote di Mubarak. Io non ci ho parole. Vabbè ragazzi, mancano 2 minuti, quindi vi saluto dicendovi che ve voglio bene, che questa è un buongiorno un cazzo, che questa sera dalle ore 20 alle ore 20 e 30 ci sarà le orazioni della sera con Walter Sbano, che domani ritorna ovviamente Leo Varghion con la puntata del venerdì del Mattino Loro in podcast, che questa sera alle 21 e 30 ci dovrebbe essere la puntata di Quando Eravamo Futuro, ma non sono sicuro perché so di che cosa parlare, però non ho preparato il documento e non so se ci riuscirò oggi, quindi ci aggiorniamo durante il resto della settimana. Vi ricordo che questa è Runtime, sempre più live, sempre più radio, nel tentativo di farvi compagnia soprattutto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e il sabato dalle 8 e mezza alle 9 e mezza. E detto questo, vi ricordo www.rantameradio.it, andate lì, scoprirete insomma tutti i vari programmi, tutti i speaker, ma soprattutto Runtime anch'io, se volete date il vostro contributo a questo progetto che continua a diventare sempre più grande e che vorremmo espandere, perché nel 2022 ci saranno tantissime novità. Ciao a tutti e buona giornata un cazzo.